50 domande su Gesù. Che relazioni intercorsero tra Pietro e Maria Maddalena? Il Vangelo di San Giovanni riferisce come il giorno seguente al sabato Maria Maddalena si diresse al sepolcro di Gesù e, accorgendosi che era stata rimossa la pietra che lo chiudeva, andò di corsa a comunicarlo a Simone Pietro e al discepolo prediletto. Al ricevere la notizia, entrambi corsero al sepolcro, dove più tardi Maria ritornò ed incontrò Gesù resuscitato. Questo è tutto quello che i Vangeli ci dicono sulle relazioni di Pietro con Maria Maddalena. Dal punto di vista storico non si può aggiungere altro. Il Vangelo di Pietro, uno scritto apocrifo, forse del II secolo, che racconta le ultime scene della Passione, la Resurrezione e le apparizioni di Gesù risorto, si riferisce ad essa come discepola del Signore. Nella letteratura marginale che si origina nei circoli gnostici si trovano alcuni scritti in cui si espongono alcuni conflitti tra Pietro e Maria. Come premessa conviene ricordare che sono testi che non hanno carattere storico e che espongono dialoghi fittizi tra diversi personaggi usati come mezzo per trasmettere dottrine gnostiche. Il Vangelo di Maria è uno di questi testi dove si racconta il disappunto da parte di Pietro per il fatto che Maria ricevesse rivelazioni segrete da Gesù. Vedasi la domanda: che dice il Vangelo di Maria Maddalena? Un altro scritto che sembra più antico è il Vangelo di Tommaso. Qui si narra, alla fine, che Simone Pietro disse: «Che si allontani, Mariam, da noi, perché le donne non sono degne della vita». Al che Gesù rispose: «Guarda, io mi incaricherò di farla uomo, in modo che anche lei si converta in uno spirito vivente, identico a quello di voi uomini, perché ogni donna che si faccia uomo entrerà nel regno dei cieli». Anche in Pistis Sofia, Pietro si spazientisce e protesta perché Maria comprende meglio che gli altri i misteri in senso gnostico e per questo è lodata da Gesù. Signore, non permettere a questa donna di parlare sempre, perché occupa il nostro posto e non ci consente mai di parlare. Qui, tuttavia, la presenza di Marta può far pensare che la Maria che appare non è la Maddalena, ma la sorella di Marta e di Lazzaro. In questi testi si osservano tratti ereditati dalla mentalità rabbinica, secondo la quale le donne erano incapaci di apprezzare la dottrina religiosa, ed elementi propri dell'antropologia gnostica, dove la donna occupa un posto di rilievo come veicolo di comunicazione di rivelazioni segrete. In realtà, le relazioni tra Pietro e Maria Maddalena dovettero essere simili a quelle che c'erano tra Pietro e Giovanni, Pietro e Paolo, Pietro e Salome, eccetera, cioè quelle proprie di colui che era il capo della Chiesa con gli altri che erano stati discepoli del Signore e che dopo la sua resurrezione davano testimonianza del risorto e proclamavano il Vangelo. Altre relazioni sono solo fantasie.